Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ha detto Fabrizio De André che la televisione è come la storia. C'è chi la fa e chi la subisce. L'uomo di cui parliamo oggi a Destini Incrociati ha fatto tutte e due, sia la televisione che la storia d'Italia. Anche se noi diamo per scontato di avere a portata di mano la scatola magica, i meno giovani hanno fatto in tempo a vivere il momento in cui è entrata per la prima volta nelle case, nel lontano 1954. Eppure a Londra i primi tentativi erano già stati fatti molti anni prima. È il 25 marzo 1925 quando l'ingegnere scozzese John Logie Bird, nel centro commerciale di Selfridges, toglie il telo rosso che copre un misterioso cubo e svela alla folla radunata per l'occasione una sorpresa che lascia senza parole. Le immagini in movimento rappresentano delle silhouette con solo la doppia tonalità di grigio, che poi tutti avremmo chiamato bianco e nero. La trasmissione vera e propria, un'artigianale ripresa del volto del suo fattorino, riesce a realizzarla 6 mesi dopo, dal suo laboratorio alla stanza a fianco. Sono tutti piccoli tentativi che possono far sorridere, ma come ricorda il critico Aldo Grasso, imprescindibili. La televisione ha una storia e noi sappiamo che su tutti gli organismi, specialmente gli organismi viventi, il passato, la storia hanno un significato molto importante. La televisione ha un presente che, come tutti i presenti, è sempre caotico, difficile da decifrare, soprattutto in questo momento in cui siamo in un pieno rivolgimento tecnologico. E poi la televisione ha un futuro che, sul quale è bello fare esercizi di immaginazione, ma di più non si può fare, perché proprio la tecnologia da un giorno all'altro cambia improvvisamente i nostri scenari di riferimento e rimaniamo così abbastanza smarriti di fronte a questi cambiamenti. Gli accademici, a partire da Umberto Eco, che ha coniato alcuni termini di riferimento, sono soliti individuare, nell'avvento della televisione commerciale, lo spartiacque tra paleotelevisione e neotelevisione. Tra le due sono molte le differenze sostanziali. Per esempio, l'importanza nelle scelte del fattore ascolti, che in una RAI monopolista e finanziata dal canone non avevano certo il peso di oggi. Erano le reti dello storico direttore Ettore Bernabei che seguivano la missione informare, educare, intrattenere, organizzando il palinsesto settimanale in rigidi appuntamenti, ogni sera un genere. Lunedì, film. Martedì, informazione. Mercoledì, sport. Giovedì, quiz. Venerdì, prosa. Sabato, varietà. Domenica, sceneggiato, l'antenato della fiction. Per esempio, l'indimenticato La Cittadella del 1964 con Alberto Lupo. Quanto tempo rimasi lì, senza muovermi, senza avere la forza di compiere un solo gesto. Mi sentivo svuotato, inerte, privo di ogni goccia di sangue nelle vene. Come il povero Hitler. Oggi pensare alla prosa nella nostra televisione generalista è a dir poco assurdo. Ci sono programmi, invece, che si sono evoluti, ma rimangono sostanzialmente gli stessi, come i telegiornali. Il primo, ancora sperimentale, viene trasmesso alle 21 del 10 settembre 1952 da Milano, con la notizia di apertura che riguarda la regata storica di Venezia. Ma soprattutto, seguendo spesso la logica dell'ibridazione, sono entrati altri generi, come i reality show in tempi recenti e molto tempo prima i talk show. Il termine di lingua inglese, perché il genere è nato in ambito anglosassone, significa qualcosa come spettacolo di conversazione o programma di chiacchiere. Lo stampo è giornalistico e si basa sostanzialmente su interviste e dialoghi tra un conduttore e uno o più ospiti, personaggi pubblici per lo più invitati a parlare di qualsiasi argomento, dal lavoro alla vita privata, dall'amore alla politica. E allora amore, quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te. Ma sì! Vengo dopo il TG. Vengo dopo il TG, vengo e mi metto lì. T'ho detto sì! Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, per star vicino a te. In America, il talk show, con conduttori storici del calibro di David Letterman, è sempre andato fortissimo. Ma anche in un'Italia che sembra non ancora pronta, un uomo precorre i tempi. Bontà Loro è il primo talk show della televisione italiana. E a crearlo, su commissione di Angelo Guglielmi, nel lontano 1976, è Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo. Non c'è mai nessuno che tira la giacca e avvisa. No. Hai perso l'autocritica, hai perso l'umore. Se uno ha la fortuna di avere degli amici sinceri, come dice quel bellissimo motto, se uno ha un vero amico, non ha bisogno di nemici. Io trovo che è una frase molto importante. Perché un La cosa più bella è tornare a casa e guardarsi negli occhi dei propri figli. Certo. La cosa più bella che c'è. E la paura che succeda qualche cosa terrorizza. Il sottotitolo di Bontà Loro è Incontri con i contemporanei. E infatti gli ospiti sono personaggi di grande calibro, come Eugenio Scalfari, di cui abbiamo appena sentito la voce, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Niki Lauda, per arrivare a Goffredo Parise e perfino Giulio Andreotti. Primo caso nella TV italiana di un presidente del Consiglio intervistato in diretta. La prima puntata va in onda dallo studio 11 della RAI a Roma alle 22.40 di lunedì 18 ottobre 1976, subito dopo il tradizionale appuntamento con Lunedì Film. Nel palinsesto è certamente una grande novità, non soltanto per il formato, ma anche per lo stesso fatto di essere mandato in seconda serata, quando normalmente non viene più trasmesso nulla nella convinzione che il pubblico vada a letto. A raccontarlo è lo stesso Costanzo. La televisione intesa come Rai, perché non c'era la televisione privata, viveva su un assunto di Ettore Bernabei, dell'allora grande direttore generale, il quale aveva detto: gli italiani alle 10:30 vanno a dormire. In realtà la prima serata finiva intorno alle 22:30, c'era un rapido telegiornale della notte, buonasera. Il problema è un altro. Io perché non porto la cravatta? Perché la prima volta che andai, siccome stavo lavorando a un film, quindi non ho fatto in tempo ad andare a casa a cambiare, mi ho detto, ma chi se ne frega, tanto c'è Bernabei, a quell'ora non c'è nessuno, e andai a Via Teulada a fare questa diretta. Ma sapere che faceva 5 minuti. Certo, gli italiani andavano a dormire perché non c'era niente in televisione, come gli è stato messo qualcosa la vedevano, e anche in numeri grandi, quindi era, non era vero che stavano, se andavano a casa a dire preghiere, poi a letto a dire preghiere, no. I primi tre ospiti sono il regista Anton Giulio Maiano, un idraulico, e Anni Papa, che poche settimane prima aveva fatto scandalo al concorso di Miss Italia mostrandosi a seno nudo. Lo show è un incredibile successo. Più di 5 milioni di spettatori, una cifra neanche lontanamente immaginabile. Da quel momento, per un totale di 63 puntate, si susseguono 187 personaggi, famosi e non. La diretta è uno dei punti di forza e viene rispettata sempre, tranne qualche rarissima eccezione. Per esempio quando il palinsesto Rai viene rivoluzionato per via dello scandalo Lockheed. La puntata di Bontà Loro del 14 febbraio con Raimondo Vianello, Marta Marzotto e Piero Ottone viene registrata qualche giorno prima. Era nato nella metà dell'ottobre del 76, la prima puntata fece 5 milioni, la seconda 13, ma era andata in onda tardi, ma non c'era mai niente, a quello non c'era ancora la televisione privata. Parlo delle guerre puniche, parlo del 76, ottobre, novembre 76. La cadenza di Bontà Loro è settimanale. La sua durata di 35-40 minuti. La scenografia è tanto essenziale quanto indimenticabile per alcuni semplici elementi che sono entrati nella memoria degli italiani e non ne sono più usciti. Una finestra, un orologio a cucù, tre poltrone color aragosta e lo sgabello in metallo per Costanzo. Lo stesso famoso sgabello su cui si sarebbe sempre appoggiato nei suoi futuri talk show. Come spesso succede, è il caso che contribuisce alla fortuna di qualcuno o qualcosa. Qui il destino ha voluto che non ci fosse abbastanza spazio in quella piccolissima stanza e che una sedia più stretta fosse più congeniale di un'altra ingombrante poltrona. Non c'era una lira. Allora, il regista Paolo Gazzara mi disse: vado a vedere nel magazzino sotto. Tornò con un prototipo di poltrona. Poi mi disse: senti, c'è uno scheletro di finestra sotto. Ho detto: portala su. Quando l'ho visto, ho detto: dai, facciamo che diamo questa. E poi ho detto: cerca se trovi un cucù che diamo la diretta, così. E qui c'era strampalato, c'era un cucù, uno scheletro di finestra. E Sordi, essendo una persona intelligente, fu l'uno che quando mi vide andare a chiudere la finestra, perché era finita la puntata, mi disse: guarda un po' se c'è ancora la macchina mia sotto. quindi feci il doppio salto mortale fra realtà fiction e realtà fiction, no? Non c'è niente di più attuale di questo dibattito tra finzione e verità. Sul tema si interroga il cinema, l'arte e naturalmente la televisione, nella quale ormai si stenta a riconoscere quello che è stato scritto dagli autori e quello che invece è una testimonianza appunto reale. Ma d'altra parte, Maurizio Costanzo ha sempre precorso i tempi. Sei arrivato a poco più di 30 anni a una credibilità così alta e perché fin da piccolo ha sempre avuto una marcia in più. Sebbene nelle biografie più o meno autorizzate ci sia confusione sulla sua città natale, Roma o Pescara, Maurizio Costanzo è un romano doc, venuto alla luce in un'ancora calda giornata di fine agosto del 1938. Per il bel paese il periodo è nero. Pochi giorni dopo, il 18 settembre, dal balcone di Trieste, in occasione della sua visita alla città, Benito Mussolini legge per la prima volta le leggi razziali, che a novembre vengono completate. Gli ebrei sono espulsi dagli impieghi statali, parastatali e di interesse pubblico. I matrimoni misti sono proibiti. Il papà di Maurizio, Ugo, è impiegato al Ministero dei Trasporti, mentre la mamma, Iole De Toni, è una casalinga. In poche parole, una famiglia come tante, né ricca né povera, ma nella quale si tiene moltissimo al fatto che Maurizio frequenti il liceo. E così lui, dopo la scuola media, obbediente studente curioso, si iscrive al Giulio Cesare, dove scopre ancora ragazzino quello che vorrebbe diventare da grande, il giornalista. Solo due fotografie, magari in primo piano, mentre fa pipì oppure fa l'indiano. Ma l'importante è calcare molto la mano. Poi parlarono di soldi, ragione della sua vita, 100.000 più le spese di trasferta e tutto il resto a sua discrezione personale. Maurizio Costanzo è determinato e ha il giornalismo nel sangue. Quando ha soltanto 18 anni, entra come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. È il 1956, lo stesso anno in cui anche Aldo Biscardi entra nella redazione sportiva del giornale. Il primo numero di Paese Sera era uscito il 21 gennaio del 1948 per iniziativa del Partito Comunista Italiano, che aveva bisogno di un organo di informazione che in previsione delle elezioni del 18 aprile si ponesse in alternativa agli altri quotidiani romani Il Messaggero e Il Tempo, entrambi di orientamento conservatore. Una curiosità, ogni giorno Paese Sera pubblicava un'intera pagina di strisce a fumetti tra cui Arcibaldo e Petronilla, Blondi e Dagoberto e il Mago Wiz. Anche Ugo Pratt, con il suo corto maltese, approda in queste pagine ed è qui che compaiono per la prima uscita italiana Mafalda e i Peanuts. Nel 1968, fedele alla sua passione, il giornale indice un concorso per l'ideazione di una striscia satirica nostrana. Il vincitore della prima edizione è il folle e sregolato Bonvi, con le sue fortunate Sturmtruppen, che sarebbero poi diventate un cult nel programma televisivo Gulp. Ehi, cameraten, come ci si sta qui? Mi hanno appena trasferiten. Beh, a parte i topen, i pidocchien, la scabbia, il fango, la pioggia, il freddo, il tifo, il colera, i cecchini, i bombardamenti e i campi minaten, abbastanza bene. Ah, suppongo che avrò problemi di ambientazione. Hai capito bene qual è la funzione di un cecchino? Devi sparare su tutti i soldati che attraversano questa strada. Jawohl, mein Sergeanten! Quelli nemici, cretino! Tutto questo è lontano quando nel 1956 Maurizio Costanzo sta iniziando la gavetta da giornalista. L'anno dopo è già nella redazione del Corriere Mercantile e nel 1960 diventa caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia, lo storico magazine al femminile fondato nel 1938. Nel frattempo incomincia a scrivere anche per il teatro e qualche anno dopo arriva anche alla radio. Il primo programma gli viene affidato da Luciano Rispoli, allora capo servizio del varietà a Radio Rai. Il titolo è Canzoni e nuvole e sarà condotto da Nunzio Filogamo, lo storico presentatore del Festival di Sanremo. Costanzo è professionale e appassionato. A muoverlo in qualsiasi cosa faccia sono prima di tutto le emozioni. Per me è stata una passione. Ogni lavoro dovrebbe essere una passione. Poi si può fare, io non riesco a capire, ma si può fare questo tipo di lavoro, questo tipo di giornalismo come lavoro. Molto più amore, ancora Maurizio lo mette nei suoi rapporti con le donne. Donne che sposa per un totale di 4 volte. Donne di cui è amico, donne con cui lavora. Gli uomini, dice, lo annoiano. È con le donne che la vita diventa giorno dopo giorno interessante. L'ultima moglie, Maria De Filippi, l'ha conosciuta alla fine degli anni Ottanta, alla Mostra del Cinema di Venezia, durante un dibattito su pirateria e diritto d'autore. Laurea in giurisprudenza, mente brillante, diventa prima assistente del marito. Poi il destino le fa prendere la sua strada di grande conduttrice, quando nel settembre del 92 prende il posto di Lella Costa, incinta, nella conduzione della seconda edizione del talk show pomeridiano di Canale 5, Amici, che poi avrebbe subito numerose evoluzioni. Buongiorno, grazie mille. Allora, siamo alla quinta edizione di questo programma. Prima, seconda, terza, quarta edizione dei Ragazzi di Amici, sigla. Maurizio Costanzo non è uno che si risparmia. Quando intravede in qualcuno un talento, di qualunque talento si tratti, si prodiga perché tutti lo sappiano. Il suo è una specie di sesto senso che gli fa intuire ben prima degli altri che cosa avrà successo e cosa no. Come quando, arrivato a Genova per le repliche di Oggi come Oggi, un cabaret in bianco e nero scritto da lui, scopre quello che diventerà una colonna della comicità italiana, Paolo Villaggio. Quando arrivai lì, il pomeriggio, venne Ivo Chiesa, che era l'altro direttore dello stabile di Genova, a dirmi: guarda, se stasera, io debuttavo il giorno dopo, non hai da fare, guardati un impiegato dell'Italsider che fa a Piazza Mazzara uno show. E io vidi questo qui. Avevo già un appuntamento a cena con Renzo Montagnani, che recitava però al Politeama genovese, che era... Insomma, e mi portai il Villaggio a cena e risi alle lacrime perché era irresistibile. E su un foglio di carta gli feci un contratto perché mi avevano offerto di occuparmi di un cabaret romano che si chiamava 7x8, che era vicino in Trastevere. Il contratto improvvisato viene siglato in maggio e prevede che Villaggio si presenti a Roma i primi di settembre. Lui arriva, ma un po' per pessimismo e un po' per scaramanzia non si porta abiti invernali, convinto di restare pochissimo. Il debutto sul palco del 7x8 è con un testo dello stesso Costanzo e del poeta Alfonso Gatto, ma è nella seconda parte dello spettacolo, quando il futuro ragionier Fantozzi racconta le sue personali e irresistibili storie, che il pubblico impazzisce. Lei calcoli, questo locale c'aveva 80 posti, si aprivano le prenotazioni alle 5 e dieci era esaurita, perché si era sparsa la voce di questo qua, e che aveva un vizio però, lui doveva andare al bagno prima di andare in scena, ma doveva andare al bagno portandosi cose da leggere, anche l'elenco telefonico. Io ho passato 3 mesi a bussare alla porta: esci maledetto, perché dovevamo cominciare, aspettavo pieno così. A vedere Villaggio arrivano tutti, da Alberto Sordi ai dirigenti della RAI che vogliono portarlo in TV. Anche per Costanzo, il passaggio dalla radio, dove ha avuto grande successo conducendo Buon Pomeriggio, al piccolo schermo, è quasi obbligato. Se tra poco diventerà il re del talk show, nel frattempo si diletta a scrivere canzoni. Una su tutte? Se telefonando, interpretata da Mina come sigla per il programma radio Aria Condizionata, ma la cui fortuna poi si è allargata ben di più, fino a entrare nel patrimonio musicale italiano. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nella RAI degli anni 70, quando è ancora un monopolio, quando ancora la seconda serata non esiste, quando ancora tutto si regge sulle regole ferree e di pudore del direttore Ettore Bernabei. Maurizio Costanzo è già un autore prolifico e poliedrico. Ha esordito come giornalista nella redazione di Paese Sera, è passato a Grazia e poi ha scritto e condotto programmi per la radio con qualche fortunata incursione nella musica, come quando insieme ad Ennio Morricone, che ha dichiarato di essersi ispirato alle sirene della polizia di Marsiglia per la melodia, ha scritto Se telefonando, cantata da Mina. Tutto questo senza mai trascurare il teatro, uno dei grandi amori della sua intensa vita. Oltre al talento per la scrittura, Costanzo ha uno speciale sesto senso per le novità. Intuisce prima degli altri cosa funzionerà e cosa no. Si tratti di una persona, come è stato con Paolo Villaggio, o con un genere televisivo che in Italia non esiste ancora, il talk show. L'idea di partenza è tanto semplice quanto efficace: che la parola sia tutto. Secondo me nella televisione conta sempre più la parola delle immagini. McLuhan diceva che la televisione è figlia della radio, che è figlia della parola, non è figlia del cinema, quindi dell'immagine. È anche vero che un'immagine può raccontare più di mille parole, però... Siamo nel 1976 e Angelo Guglielmi ha bisogno di riempire per una quarantina di minuti lo spazio dopo il film del lunedì. Chiama Costanzo, al quale viene un'idea. Lui come conduttore e una chiacchierata con gli ospiti, che culmina nella domanda metaforica «Che cosa c'è dietro l'angolo?». Bontà loro, anche se all'inizio nessuno ci crede, è un incredibile successo fin dalla prima puntata. Quando io ho cominciato a fare in diretta Bontà loro, ottobre del 76, Rai, via Teulada, dovette venire ospite il presidente della Rai, Paolo Grassi, perché io ottenessi una cassetta di acqua minerale, perché il bar alle 9 chiudeva e io andando in onda tardi, alle 11, non c'era più modo di avere un bicchiere d'acqua. Ecco, questa era la Rai. I personaggi invitati sono famosi o anonimi, ma sempre portatori di storie. È questo che interessa a Costanzo, fare in modo che il pubblico a casa possa verificare la propria vita mettendola a confronto con il racconto della vita degli altri. Perciò, non appena qualcuno gli parla di una vicenda interessante, fa di tutto per approfondire. È quello che succede un giorno quando un amico gli racconta di un ingegnere dell'IBM che ha scritto un libro ambientato a Napoli, intitolato Così parlò Bellavista. Maurizio Costanzo sta per cambiare la vita a Luciano De Crescenzo. Luciano De Crescenzo. Io ho fatto sempre un ragionamento, cioè non mi sono mai posto dei traguardi, sinceramente. Se mi piace lo dico. Una volta io lessi un piccolo sellerio di Camilleri, che era il ladro di merendine, mi sembra. C'era Camilleri nella puntata. E io dissi, guardate, leggete questo libro. E dissi una cosa che non ho mai più detto e che non ho mai detto. Se non vi piace, chiamatemi, vi restituisco i soldi. Non ha chiamato nessuno. Un rischio pazzesco, però io ho sentito di farlo, ma c'è ora, cioè, non me l'ha detto nessuno. E io vado a sensazioni mie, sbagliando o azzeccandoci, ma solo a mie sensazioni... Non si può recitare l'interesse per un libro, l'appassionarsi per una campagna, non lo puoi recitare, o c'è o non c'è. E quindi mi sono lasciato vivere sempre, ancora oggi, da quanto mi emoziono io, cioè quanto realmente mi interessa a me. Napoleno sola mare. Napoli adori mare, Napoli una carta sporca e nessuna sa ne porta e ognuna aspetta sciorta. Chiaia è uno splendido quartiere del centro di Napoli, con la villa comunale, ex Villa Reale, che lo domina con tutta la sua imponenza. Se a nord ci sono Fuorigrotta, il Vomero e Monte Calvario, a sud la vista è sul Golfo. È qui, durante il caldo d'agosto, che nel 1928 viene alla luce Luciano De Crescenzo. Papà e mamma non sono più giovanissimi. Si sono sposati piuttosto tardi, dopo essersi conosciuti, per meglio dire visti, attraverso presentazione fotografica. Lui vede la foto di lei, lei vede la foto di lui e si organizza il matrimonio che peraltro risulterà ben riuscito. Papà ha un negozio di guanti in Via dei Mille e lavora con clienti facoltosi. La leggenda vuole che uno dei suoi dipendenti fosse l'autore della celebre canzone Oi Marie. La mamma, con saggezza popolare e sensibilità femminile, trasmette a suo figlio i grandi insegnamenti della vita. Ma mamma, mi ricordo, fino all'ultimo giorno, anzi all'ultimo minuto, mi disse: Luciano, ricordati che più che si vive meglio quando si vuole bene che quando si è voluti bene. Il piccolo Luciano gioca sempre con un vicino di casa destinato a diventare anche lui famoso, Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Umorista per natura, prima ancora che per vocazione letteraria, De Crescenzo riesce sempre a cogliere il lato buffo della vita, tanto che quando inizia la guerra e lo arruolano, fa dell'ottimismo sempre e comunque la sua bandiera. Tutto un momento veramente bello della mia vita è stato quando mi hanno chiamato per partire per la guerra, per il fronte, e che mi hanno vestito da soldato, io sono andato a Capodichino, mi hanno dato il fucile e nel momento che mi hanno dato il fucile io ho detto al mio amico Alfonso: Alfonso, io non ucciderò mai nessuno. E lui disse: ma come fai a non uccidere? Ti hanno dato il fucile. Alfo, basta quando spari, sparare un pochino più in alto e così sei sicuro di non ammazzare nessuno. Quello è stato un momento fortunato. Quando arriva il momento di iscriversi all'università, la scelta di De Crescenzo ricade su ingegneria. Da un lato si sente portato per il calcolo, dall'altro lato sia lui che i suoi genitori pensano che questa strada possa garantirgli un buon futuro di stabilità. E così ogni giorno va a seguire le lezioni alla Federico II, dove rimane letteralmente ammaliato dai corsi di analisi matematica di Renato Caccioppoli, un personaggio geniale e sopra le righe. De Crescenzo, all'esame con lui, non ottiene un gran risultato. Un 21 di scoraggiamento, come ha detto più volte. Ma quando Caccioppoli nel 1959 si suicida con un colpo di pistola, per Luciano è uno dei drammi più grandi mai provati. Al terribile momento è dedicato il film Morte di un matematico napoletano, diretto nel 1992 da Mario Martone. Professore, posso farle una domanda non pertinente alla lezione? Certo, di. Secondo lei, perché Einstein si è opposto alla teoria dei quanti? Perché secondo Einstein Dio non gioca a dadi. E poi vedi, il mondo delle verità fisiche, come di quelle matematiche, è chiuso come una sfera. Ogni nuova visione, se è profonda, è una fuga da questa specie di prigione. Si possono avere delle resistenze a fuggire, oppure non se ne può vedere proprio la ragione. Luciano De Crescenzo si laurea in ingegneria con un voto brillante e il suo destino sembra ormai scritto. La IBM Italia lo assume come rappresentante commerciale e lui si dimostra fin da subito un venditore eccezionale, forse anche per merito della sua indiscussa capacità fabulatoria che conquista donne e uomini. Rimane in azienda per quasi 20 anni, durante i quali gli attestati di stima diventano anche concrete promozioni, finché ormai quasi cinquantenne scopre qual è la sua vera vocazione: la scrittura. Un po' ci crede e un po' è il primo a non prendersi troppo sul serio. Fatto sta che la sua prima fatica letteraria viene alla luce nel 1976. Si tratta di Così parlò Bellavista. La grande protagonista del romanzo è la città di Napoli, raccontata attraverso i dialoghi tra l'ingegner De Crescenzo, il professor Bellavista, il vice sostituto portiere Salvatore, il poeta Luigino, il dottor Palluotto, napoletano trapiantato a Milano, e altri personaggi. Il professor Bellavista, di capitolo in capitolo, impartisce lezioni sulla vita, dividendo gli esseri umani tra quelli che tendono all'amore e quelli che tendono alla libertà, il tutto producendo un raffinato affresco della quotidianità partenopea. A De Crescenzo, come succede spesso agli autori, l'ispirazione è arrivata da un episodio banale, ma a suo modo importante. La visita di alcuni amici arrivati dal nord Italia che ha dovuto preparare al nuovo habitat. Come al solito, il suo approccio al mondo è ironico e leggero, ma ancora non sa che grazie all'incontro con il re della televisione la sua vita sta per cambiare. Sul mare luccica la luna in transito, bianca. che c'è il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza? Madonna mia, questo cos'è? Castellammare pesce non c'è. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1976 e un ingegnere dell'IBM non più giovanissimo, Luciano De Crescenzo, si è appena cimentato nel suo primo libro. Così parlò Bellavista racconta, attraverso l'intervento di alcuni curiosi personaggi, la sua complicata e amatissima Napoli. Di certo non sta pensando di cambiare la sua vita, che ha preso una direzione ben definita già con la laurea. Ma intimamente, senza confessarlo a nessuno, un po' ci crede al suo lavoro, alla possibilità che il futuro possa offrirgli un'altra strada, quella della scrittura. Il destino è dalla sua parte, perché il romanzo capita tra le mani a Maurizio Costanzo, che ha appena inventato il primo talk show della televisione italiana, Bontà Loro. Dopo la lettura, il giornalista ne è semplicemente folgorato. L'affresco che lui fa di quei quartieri napoletani, di una Napoli che ancora era parente con Totò, con i De Filippo, non con la Monnezza, cioè una Napoli che sì, c'aveva la Camorra, quanto le pare a lei, ma era una Napoli ancora fantasiosa, irriconoscibile oggi. Se uno pensa che a via Chiatamone, alla Sera del Mattino di Napoli, il giornale quotidiano che fu diretto da Matilde Serao, ci sono due montagne di mondezza, a me sembra un'offesa al patrimonio culturale italiano, al patrimonio della memoria italiana. Maurizio Costanzo è un illuminato scopritore di talenti dotato di un vero e proprio sesto senso. E adesso l'unica cosa che ha in mente è aiutare Luciano De Crescenzo a sfondare. Ben consapevole da sempre del potere della televisione, lo invita in trasmissione. Dunque, non mi ricordo che anno era, forse era il 77, presumo. Non sapevo nulla di Luciano De Crescenzo. Un giorno qualcuno della Mondadori Libri mi suggerì di leggere un libro di uno che si chiamava Luciano De Crescenzo, che era un ingegnere dell'IBM. Io ho sempre avuto una certa diffidenza nei confronti degli ingegneri, per di più elettronici. Lessi il libro, che deve essere forse Così parlò Bellavista, forse, e rimasi colpitissimo. Lo feci venire in trasmissione, Bontà Loro per gli ascolti da capogiro, 9 milioni, 11 milioni, eccetera, ed esplose e diventò scrittore. Lui, dopo qualche mese, mi telefonò e mi disse che si era dimesso dalla IBM, e io gli dissi: ti ha curato, ti cura uno psichiatra, cioè lo stai facendo? No, farò lo scrittore. C'ha ragione lui. I due insieme sono una bomba e quello che raccontano uno spasso. Come provocazione propongono addirittura al pubblico di dare un consiglio sul futuro di De Crescenzo: diventare scrittore a tempo pieno e lasciare il lavoro all'IBM, oppure tenersi stretto il posto di lavoro che è sicuro da 20 anni e non rischiare. Una domanda in fondo esistenziale e soprattutto un'altra grande intuizione di Costanzo, che innesca un meccanismo antesignano della TV interattiva. Non è un mistero quello che pensa. Il mezzo è in costante evoluzione. La televisione oggi ha bisogno di persone che ragionino sulla televisione, cioè bisogna non essere mai prigionieri del sogno. Tu fai un programma che va bene. Quindi io ho cambiato molto il Costanzo Show nel concept, perché dovevo adattarlo ai tempi. Poi porti sempre la domanda di quello che si sta facendo. La televisione è uno strumento con delle regole ferre ma molto flessibile, quindi cambia un po' tutti i giorni. Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai, oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta è con la Rai, è sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni gli operai. Un passaggio in un talk show di Maurizio Costanzo, da Bontalloro al Costanzo Show, inutile negarlo, ha sempre garantito visibilità e di conseguenza spesso successo, anche economico. Ma perché questo succeda, bisogna comunque che l'ospite in questione abbia realmente una marcia in più. Non è una cosa che può succedere sempre. È vero che per più di 20 anni, se uno scrittore in grado di parlare con un bel libro veniva in trasmissione da me, c'aveva un'edizione fatta, però doveva saper parlare e doveva essere un bel libro. Cioè, quante volte io ho avuto degli scrittori che non valevano nulla, sono andati male. Non è vero che, per quanto i librai si informassero quando veniva qualcuno al Costanzo, cioè, e proponessero il libro, il lettore non è un imbecille, specie quello che frequenta le librerie, non l'ha preso. De Crescenzo è senz'altro uno scrittore geniale e il pubblico lo capisce. Così parlò Bellavista svetta immediatamente in testa alla classifica dei libri più letti, sfiorando un vero e proprio record di quasi 700.000 copie vendute, a cui si somma una traduzione in moltissime lingue, tra cui il giapponese. In poche parole, un caso letterario, tanto che al Salone di Torino del 2011 Così parlò Bellavista è stato addirittura annoverato come uno dei 150 libri che hanno fatto la storia d'Italia. Luciano De Crescenzo si licenzia davvero dall'IBM e, grazie al sostegno incondizionato di Maurizio Costanzo, incomincia una nuova vita tutta letteraria. Mio padre Maurizio Costanzo un giorno mi chiamò in questo programma che si chiamava Bontalloro. Ora, capisci, in un paese come l'Italia, dove non nessuno legge, scrivere un libro equivaleva a morirsi di fame, eh? E invece no, c'era Maurizio Costanzo, mi chiama in televisione e io da quel momento ho incominciato, come si dice dalle mie parti, a fare i soldi. Mentre la vita di Costanzo continua in televisione, un programma di successo dopo l'altro, di cui il più longevo è senza dubbio il Maurizio Costanzo Show, per De Crescenzo inizia la seconda vita, fatta di 25 libri vendutissimi, dei quali alcuni sulla filosofia antica, quasi sempre presentati in un programma dell'amico. È sempre pieno di iniziative, eh? Io quindi gli voglio bene, come se fosse una specie di padre, oddio, come età non ci troviamo, però insomma io gli voglio bene. Scrittore e divulgatore, De Crescenzo ha il merito di avere trattato la storia della filosofia con semplicità e leggerezza. Inoltre ha condotto una trasmissione sui miti greci e ha esordito come attore a fianco di Benigni in Il Papocchio, diretto da Renzo Arbore. Non è l'unica volta in cui recita, torna davanti alla macchina da presa per la Wertmüller, mentre per altri fa lo sceneggiatore. Non gli basta. Da regista, nel 1984, si occupa della trasposizione cinematografica del suo primo fortunato bestseller. Perché in fondo, così parlò l'uomo con i baffi. I carabinieri a cavallo fanno 20. Voi mi avete detto i carabinieri a piedi che fanno 36. Ma che facciamo? Se abbiamo 20 e 36, ce li vogliamo giocare tutte e due. Facciamo due carabinieri a piedi e due carabinieri a cavallo. Voi dovete avere pazienza. Il sogno non è mio. Non è vero. No, è di mia sorella. Io gioco sempre, ma non sogno mai. E allora, quando voglio giocare, vado da mia sorella la sera e le dico: Carmili, fatti un bel sogno e così io gioco domani 5.000 lire. Anni come giorni sono volati via, brevi fotogrammi, un treno in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità. Le nostre voglie, dei nostri jeans, cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi, anni bucati e distratti, noi vittime di noi.